come in origine. K. Vai, ma tu devi cambiare, sono qua, sono qua, sono originale, ce l'ho dalla... vabbè, sono qua, sono qua, comunque vabbè, si centomo, quindi vabbè. La tua radio, Marco, è favolosa, per me è favolosa, per cui non c'è problema, avanti. Sì, confermo, questo è il KPO, il microfono è il KPO NM532, messo a metà. Praticamente questo messo a metà ha la stessa potenza microfonica dello ZG-M93, quello da palmo, messo al massimo. Se io lo dovessi mettere a manetta, come adesso, vedi, sicuramente anche c'è troppo effetto stanza. Guarda, ti parlo lontano, tutto il braccio, sto parlando col medesimo volume di voce, vedi un po'? Non ha cambiato niente, è un microfono sensibilissimo, per cui ripeto, ancora una volta è una radio favolosa. Mia Tonè, questo microfono su quello lì deve essere una bomba. Non lo so, lo proverai tu, già lo sai. Ma, Antonè, se te l'ha regalato magari è per tenerlo, no? Sì, ma tu mi hai regalato a me un apparecchio, quindi a un certo punto uno tocca anche a me, per te già lo sai. Ma io ti darei qualcosa in cambio, qualcosa molto attinente a quella passione che c'hai tu, in alto, frequenze un po' più alte. Il culetto? No, che c'entra, il culetto è frequenza bassa, è solite cose PMR ratte, dai, quell'apparecchietto che non uso mai, che c'ha un sacco di watt, c'ho due microfoni, è nuovo di trinca, nuovo, piccolino, e c'ha lo stesso menu dell'UV5R, è facilissimo da usare. Ho capito, stavo scherzando. Adesso lasciami mettere la posta sotto, hai tutto il microfono, poi devo metterti lo switch, perché vabbè, quello che è incantato più che altro, se voglio, se do un colpo sale sopra, capito, però non me ne frega niente, a un certo punto lo sistemo bene, dopodiché una volta che è a posto ti chiamo e te lo prendi. Quello è il tuo sogno, quindi tu mi hai regalato un sacco di roba, Marco, te lo meriti, la verità. E una mano lava l'altra, dai, diciamo, ok. Vabbè, comunque, pensaci su, io non è che sto insistendo. I baracchini già lo sai che sono inflazionato, però era una cosa carina quello, sì. Giulio, riprendi. Ok, Marco. No, io ormai sono ridotto al lumicino. Ho solo questo e basta, no, niente di più. Tu mi fai capire che ne hai diversi, per cui buon per te. No, ma io no, non spendo più un centesimo, almeno fin quando dura questa situazione, per questa non spenderò mai più nemmeno un centesimo. Se mi occorre un PL non lo compro, no, farò una saldatura diretta. Bene, sono andato, Marco. Bene, di lusso, di lusso. Signori, mi dovete... perdonare, ma devo staccare, dai, cause familiari, forse rientro dopo se ci siete, se no ritenetevi cordialmente tutti super salutati, ok? Ok, d'accordo Marco, alle prossime allora, dai, ci sentiamo, casomai dopo, se coincide, così almeno attendi pure, fai quello che devi fare, perciò ho... Prima il dovere di famiglia e poi l'ubbi. Avanti Antonio per salutare a Marco. Io, ciao Marco, a dopo ci sentiamo. Ok, va bene. A dopo, ciao a tutti, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao Marco, alle prossime. Antonio, adesso ti faccio sentire una puntina di eco, perché non lo uso mai, vediamo un po', come vuoi da tua? Ah, ecco, così, boh, forse così, com'è l'eco così, Antonè? Non lo uso mai, pensa che non so nemmeno la regolazione com'è, perché non lo uso mai. Da quando ce l'ho questo baracchino, ce l'avrò un paio d'anni e non lo conosco molto bene perché... non mi interessa più di tanto, basta modulare alla solita maniera e basta. Va bene così, lascialo così. Ma è un eco fastidioso, brutto, sporco, com'è? Da buttare via, da eliminare, com'è? No, no, va bene, è un eco reverbero, quindi va bene. Ah, ok, va bene, dai, dai. Allora, ti do retta, dai, ti do retta, Antonio, lo lascio così com'è. Poi se qualcuno si sente infastidito dall'eco, me lo basta che me lo dica, ci vuole poco a toglierlo. Basta abbassare il potenziometro, perché adesso è al minimo, tutto è al minimo. Ho capito, no. Vabbè, non ti preoccupare per quello, io ci mancherebbe. Lascialo così, apposta. Ok, va bene, va bene. Poi per quanto riguarda il resto non lo so, la radio ad esempio dovrebbe andare ancora bene, parlo di batteria, di microfono, dovrebbe andare ancora bene. Rumori di fondo non so se ce ne sono, anzi sicuramente ce n'è, anzi ne tolgo, ecco adesso vediamo un po', no, ho staccato l'alimentatore del caricabatterie, l'ho staccato. Perché se attacco quello mi crea una leggera alternata. Ho capito. E vabbè, lascialo così, fregatene. Infatti lo lascio così. Vediamo un po' se vuole entrare qualcuno. C'è qualcuno che vuole entrare su questo canale a dire quattro fesserie insieme a noi? No, non c'è nessuno. Tutti stanchi sono. Tutti stanchi, nessuno ne ha voglia, Antonello. Io non so pazienza, cosa ci vuoi fare? Aspetta 10 minuti, sto arrivando subito. 2 minuti, cioè 10 più che altro, Va bene, io sono qua. Casomai poi fai un fischio e così riprendiamo. Anche due, intanto sto provando questo apparecchio che ho preso stamattina. Me l'ho comprato, quindi lo sto provando. Va bene, d'accordo. Comunque c'è anche il bip in quell'apparecchio lì. Sì, ne avevo messo 200 questo, Sì, è il solito bip tradizionale, quello bip, bello, no, già va bene. Ok, l'ho comprato stamattina, l'ha venduto, quello che mi ha venduto l'antenna, quindi è roba di Sassari, quindi tranquilla, non è da fuori a un certo punto. Ok, va bene, no, io ho sempre un'antenna messa da parte, la Mantova Turbo, che non ho più usato e penso che non la userò mai più, per cui l'ho messa impacchettata in un angolo su in mansarda, conservata in un angolo dove non mi dà fastidio, per cui va bene così. Me la tengo, qualcuno me l'ha chiesta ma non l'ho voluta dare perché mi piace averla, mi piace tenerla tutto lì e continuo a usare la Game Master. La Game Master mi è comoda perché è vicino a dove passo solitamente, cioè nel terrazzo della mansarda, quando devo fare un pochino di manutenzione. Mi metto la sedia, stacco il piede perché è talmente bassa che mi va bene così. Ok. Vabbè, comunque la Game Master qualcuno ha avuto problemi a Itri, quindi non so cosa dirti. Gli dava la corrente elettrica a casa, quindi a un certo punto ha preso e ce l'ha buttata. Si è pensato la manta, ma si è pensato Daniele, quindi non lo so. Comunque sia, vabbè, dipende dalle zone, ognuno, a me, cioè, per 15-20 anni non mi è mai successo niente, 20-30 anni, con la Mantova 5, Mantova 1, Mantova Turbo, eccetera, eccetera, arrivare, cazzo, la scorsa mi è arrivata a spendere 150 euro di televisore, mi dispiace, ma io non ne spendo più io. Prendo un'antenna di cazzo, cioè la chiamo così antenna di cazzo ormai, perché è così. Sistemata, me l'avevo sistemata a un certo punto. Che cazzo ho fatto di male? Cazzo, a spendere 300 euro cazzo di televisore, no, non ne vale più la pena. A un certo punto conviene più un'antenna di, per quelli che siamo, 5, 6, 10, 10 persone, quanti siamo? non può più pompare, perché non pompi più, dove cazzo fai quando vai a pompare? Parli con Sassari, il produttore, se Massimo Alghero, se ci arrivi pure. Non è più come prima, si facevano le gare per fare i DX e cose del genere. Oramai è finito tutto, hai capito? Non ne vale più la pena, il discorso è quello. Tutto lì. Okay. No, le gare io non le ho mai fatte, non ne ho mai avuto ambizioni di forza o di potenza, non me ne ha fregato mai niente. A me quando mi hanno sentito mi andava sempre bene, poi per il resto non mi fregava niente. Poi se c'era qualcuno che aveva l'idea un pochino alterata, che voleva essere chissà chi per farsi sentire da qui e dall'altra parte della terra, buon per lui. A me non mi è mai interessato. A me quando mi sentivo nel circondario e nelle zone limitrofe a Sassari va benissimo così, mi è sempre andato bene. Poi quando ho riuscito ad andare oltre mi ha fatto ancora piacere, ma tutto questo senza cercarlo io, senza cercare l'allontananza, non me ne fregava niente, non me ne è mai fregato niente e mai me ne fregherà assolutamente. Per il momento vabbè, meglio così, non c'è più quello di una volta. Il discorso è quello, se no quando gli anni 70, 80, 90, eccetera, tutti collineare. Adesso non c'è più di manco un cane, quindi è logico che tutti ragionano come ragioni anche tu, e ragiono anch'io la stessa identica cosa, comunque sia. Se dovesse succedere un giorno magari fra 30, 40 anni, cosa del genere, che tutti quanti pompano, cosa del genere, chi 1000, 1500, eccetera, eccetera, allora si provererà a un certo punto, che costeranno 2000 euro, 3000 euro lineari, a parte gli apparati saranno totalmente diversi, ti vedrai di persona, ti vedrai e fare la videochiamata, eccetera, eccetera, hai capito? Succedeva così. Lo so, quando uno aveva quelle idee lì, io ho sempre pensato che uno che aveva le idee così assurde, perché io le considero idee assurde, della potenza, di voler superare chissà che cosa e tutte queste cose, per me è sempre stato un atteggiamento contrario a quello che può essere la durata della frequenza, perché tu lo sai benissimo. Quando si facevano quelle cose lì, la gente bisticciava, la gente si faceva dei dispetti, e tutto questo a discapito del buon QSO. Per cui non serve a niente, non è mai servito e non servirà mai a niente. Ci vuole educazione anche su questo fatto qua, e cioè modulare nella maniera più semplice e più corretta possibile. 2 secondi mi hanno chiamato al telefono, ci riprendo dopo, ti richiamo dopo. Va bene, d'accordo. Chi c'è rimasto? Oh, tu sei Marco. Eia, avete già chiuso? No, sei dovuto allontanare Antonello, no, io avevo abbassato il volume, adesso te l'avevo appena sentito, ma non avevo capito che eri tu, che sei tornato. Eia, sì, stavo ascoltando quell'eco. È bella limpida, l'eco è rapido, no? La ripetizione è rapida e non sovrasta la modulazione. Sì, lì puoi regolare sia il volume, allora il volume ti regola proprio il volume dell'eco e anche il numero delle ripetizioni. Arrivo, ma scusa Giulio, un attimino. Vai. Sì, okay. Avanti e indietro, questa è la maratona che sto facendo. Vabbè, prima ti ho detto, io ho sempre detto, prima ciò che serve in famiglia, poi il baracchino. Il baracchino è sempre una cosa di secondo ordine rispetto alla famiglia, ci mancherebbe altro. E già, dicevo, quell'apparato non c'ha due regolazioni, una è per il volume dell'eco e aumentandolo il volume ti aumenta anche il numero di ripetizioni, e l'altra è la velocità, cioè, ripete più veloce, più a ridosso della, di quello che dice, oppure più lento, cioè ripete tot secondi dopo che dici la parola, ecco, già hai capito, dai, comunque. Sì, moltiplica le parole più velocemente, ho capito, e soprattutto più a lungo, suppongo. No, adesso è regolato, cioè, subito dopo lo scatto di accensione, perché ha quel potenziometro dell'eco qua, c'è lo scatto di accensione dell'eco, tanto è vero, appena che lo accendi esce scritto anche sul display, esce scritto ecco, e è messo il punto di riferimento con la lineetta bianca, è messa a mezzogiorno, cioè in alto, ma penso che sia proprio al minimo sopportabile. Poi chiaramente se giro ancora, se do manetta al potenziometro, senz'altro ci saranno delle variazioni, non ci sono dubbi. Sì, anch'io, pur non usandolo mai, lo metto ogni tanto in funzione per far funzionare la circuiteria proprio relativa all'eco. Non sia che non usandolo qualche condensatorino si sciabideggia, già lo sai come, no? Meglio ogni tanto attivare le varie funzioni che non si usano mai, in modo da far funzionare tutto quanto nella radio. Poi una volta così provato si può anche rispegnere. K. Sì, beh, certo che sì, infatti non è che sono mai stato io un amante dell'eco, no, nella maniera più assoluta, però se la gente piace posso anche tenerlo, non c'è problema. Interessante che la gente non si senta infastidita, perché allora in quel caso basta che me lo dicano e io stacco subito, no, non ho problemi, sfigurati un po', nella maniera più assoluta. No, io tutte queste funzioni che ha, sono belle, lavelle, tutto quello che vuoi, no? Non ci sono dubbi, però sinceramente parlando non li utilizzo mai, anche il bip, boh, non so nemmeno il suono com'è, più o meno, ma suppongo che, visto e considerato che ho sentito altri baracchini simili a questo, allora ho capito che anche il mio suono del bip è quello, tipo ad esempio c'è la Gio Maria, ce l'ha, e ce l'aveva anche qualcun altro. Sì, lì è, te lo puoi anche ottimizzare come vuoi tu, puoi farlo tipo Superstar 3009, puoi farlo tipo anche Alan 48 Colt, quel bip breve e acuto. Di serie come usi la radio, come esce dalla scatola senza programmarlo, o senza andare da menu, mi pare intorno ai 1000 Hz, mi pare sia 1050 Hz, 1050, 1050 Hz, capito? Che ricordi, eh? Cioè, programmando io sul display, cosa dovrei trovare? Boh, io non ho letto tutto il depliale di istruzione, però adesso non è che ho tutto a memoria, la verità. E per quanto riguarda quello che mi stai dicendo, non mi ricordo affatto niente. Boh, pensavo che fosse un bip fisso e basta. No, in quell'apparato è regolabile, certo è un monotonale, un tono unico, però così lo puoi personalizzare. Le voci di menu sono RBF, naturalmente è stilizzata un po' la F, no? RBF sarebbe la frequenza in Hertz, no? 1050, sì, un kilo, cioè, quant'è? Quindi RBF è la frequenza, RBT sarebbe Roger Bip Time, ed è espresso in millisecondi. Ho capito, boh, non lo so, vabbè, ci voglio provare, un altro momento ci provo, vediamo un po' cosa viene fuori, però non è che ne sono proprio interessatissimo, ad ogni modo mi piace sapere il funzionamento in maniera totale di questa radio. No, mi sono interessato ad esempio per il fatto delle stazionarie, quello infatti è sintonizzato adesso in questo momento che mi sta dando 1 e 1, giusto giusto, di stazionarie, oppure quello per la tensione, di alimentazione, anche quello di tanto in tanto provo, anche per controllare la funzionalità dell'alimentatore, se è sempre giusto o se si è alterato in qualche maniera. E poi cosa anche? Poi c'è anche un'altra cosa, quando schiaccio Funko faccio IC9 e poi vado avanti e 31 non so che cosa, oppure 63, quello non mi ricordo a cosa si riferisce, forse al microfono. Sì, quello è il mic gain dell'apparato. Cosa c'è ancora? Ma aspetta un attimo. Sì, vai. No, già fatto. Allora sì, quella voce lì è il mic gain della radio, è 63 il valore massimo. Cioè non hanno usato una scala a 100, così non so perché, 63 è il valore massimo. Mi pare appena lo apri dalla scatola è regolato a metà, tipo 31, ma va messo al massimo ovviamente, se no che senso ha? Eh beh certo che sì, no, ma poi c'è da dire anche un'altra cosa, questo è originale, questo non è stato mai programmato col famoso cavetto lì per il computer eccetera, no, questo è sempre rimasto originale, io non ce l'ho nemmeno quel cavetto, penso poco, e poi non lo farei nemmeno, non mi interessa più di tanto, perché il canale ne ha più che a sufficienza, ne ha se devo spostarmi, anche se posso andare addirittura a un Hz per volta, figurati un po', a secondo dei canali che voglio coprire, e c'è una larghissima banda di canali, perciò va bene così. Eia. Io il mio l'avevo personalizzato, praticamente tu hai 40 canali per banda, no? Io l'ho messo per avere 60 canali per banda, quindi 6x6, 36, 360 canali, e li puoi disporre come vuoi tu. E praticamente ti puoi programmare una banda canalizzata come la frequenza inglese, no? In FM, che hanno l'uno finale come kilohertz, 1.25 finale, oppure puoi mettere, perché ne so, per ascoltare le bande amatoriali da 28 in poi puoi mettere lo 0 finale anziché il 5 finale come ce l'abbiamo in 27, capito? E così te lo puoi personalizzare. Invece mi pare così come ce l'hai tu, tipo fa 26-28 mi pare, una cosa del genere, o 25-615, 28-305, una cosa del genere dovrebbe essere. Invece quello in totale va dai, aspetta quant'era, cioè la gamma che puoi sfruttare, no? O più in alto o più in basso, perché poi le bande sono sempre quelle, non puoi avere tutto. Credo che parta quasi dai 25, sì, 25 è qualcosa, fino ai 30.105, ma che tanto, è vuoto, è inutile averlo. Quello che interessa è la 27, la 3+5 e l'ascolto dei radioattori in 10 metri al limite. Sì, quello sì. In effetti è così, non serve a niente avere altri canali se poi non li puoi nemmeno utilizzare. Sì, io ho quelli di 40 canali, però se vado per dire sulla banda dei 2 metri, perché posso sintonizzare lì, arrivo anche col canale 60, il canale 60, lì sì che ci sono, ma non in tutta la gamma della 27, solamente in quella gamma lì, dove appunto non ci posso andare. Dicevo, quegli apparati di questa famiglia, no? Più che quello lì, che hai tu, che ho io, no? C'è il 7009, il 9009, che nelle ultime versioni turbo parte addirittura dai 12 metri, cioè dai 24 MHz, dai 24,7 e poi finisce sempre ai 30-105. Diciamo, è interessante perché puoi ascoltare i radioamatori in 12 metri, in banda laterale, capito? I 12 metri sono da 24,890 a 24,990. E anche lì senti le solite cose, CW, FT8, banda laterale, eccetera, dai, insomma. Siafonia in modi digitali, dai, della così. Sì, ma anche quando passo sulla banda dei 28, parte da 28 e qualcosa, adesso non ricordo esattamente la frequenza giusta, e finisce a oltre 28 e 800, boh, una cosa del genere, finisce. Per cui, mentre invece, restando nella banda 27, parte da 25,615, se ricordo bene, e arrivo sino a 27,800 e qualcosina, dai, una cosa del genere. Eia, e sai quale altro apparatino ha? Piccolo, sembra un omologatino MFM. Il presidente McKinley è il più piccolo, con tutte le AM, FM, SB, eccetera, e anche quello parte dai 12 metri. Quindi anche lì in varie occasioni ho sentito radioamatori sui 12 metri, in fonia naturalmente. Ok, sì, infatti quando se passo sulla banda, cioè oltre 27,800, 28, sento molto CW, c'è molto CW, perlomeno nelle prime frequenze, dai, 28 e qualcosina, eccetera, poi andando oltre, chiaramente poi lì no, lì c'è fonia sicuramente. Sì, guarda, di solito il canale di chiamata, chiamiamolo così, 28,5, trovi molta roba, 28,4, 28,5, 28,6, tutta quella fetta centrale lì, dai. Sì, è un po' come l'HF, ad esempio, l'HF quando tu vai in 40, 7.000 e qualcosina, 7.010, 7.015, 20, 30, 35, eccetera, lì è tutto CW lo stesso, tutto CW, si comincia a sentire qualcosa quando vai a 7.000 e oltre 50, 7.070, allora sì, si comincia a sentire i radioamatori. Ma i primi diciamo canali sono quelli, vanno molto molto in CW. Sì, avevo scaricato una bellissima scheda del bandplan HF dalla Ari qualcosa di Mantova. C'è il bandplan HF a colori e ti indica appunto per ogni segmento di ogni banda a cosa è riservato. È riservato credo per convenzione, cioè la prima parte per il CW, modi digitali, FT8, quella roba lì. E poi dopo una certa limite c'è la fonia vera e propria. Era bello, era fatto bene, a colori ti spiegava ogni segmento di ogni colore a cosa in teoria era riservato. Poi ci sono, vabbè, molti pasticcioni che vanno a modulare a zona CW, non so se sia una regola vera e propria o solo una convenzione che hanno adottato, è questa qua. Però era molto bella quella scheda, me l'ero anche, vabbè, stampata su un foglio A4 e l'avevo anche plastificata in modo che non si rovini. Sì, io tempo fa l'avevo vista una tabella del genere e me la sono fatta scaricare, non io perché non lo so fare dal computer, però me la sono fatta scaricare qui a casa e da qualche parte ce l'ho, ne sono più che sicuro. Però sì, ma tutte le frequenze in assoluto, non solamente quello radioamatoriale, ma tutte le frequenze marine, le frequenze dell'aeronautica, tutte, ce le avevo tutte indistintamente, e poi non me ne faccio niente, tutto sommato. Ah, ti volevo dire, poi c'è gente che va prima dei 7.000 in 40 metri, che secondo me non dovrebbero andarci nemmeno, perché la frequenza dei 40 metri incomincia da 7.000, da 7.000 a 7.200. Invece io ho sentito più volte gente che andava a 6.900, ad esempio, una cosa del genere. E così secondo me non era corretto. Se vai prima di 7.000 mi pare che siano fuori banda, a parte dai 7 MHz ai 7.2 punto 1999, quello che è, insomma. E vabbè, quelli sono come noi che sconfiniamo sul 45, per dire, anziché stare sui 40 normali. Però per loro, avendo una patente un po' più delicata, insomma, potrebbero punirli più duramente. Appunto, per cui dovrebbero stare un pochino più tranquilli e cercare di parlare in maniera più corretta, perché per quanto ne so io, si parte dai 40 metri, si dovrebbe, a meno che non ci sia stato un allargamento di banda che gli hanno concesso, questo non lo so, non te lo so dire. Passo solo che si parte da 7.000 a 7.200, tutto lì. Poi c'era qualcuno qua ormai che andava anche in 7.200, ma sporadicamente, proprio raramente, ho sentito qualche radioamatore andare oltre i 7.200. Se no, di solito magari lì disturbano anche le radio nazionali che si sentono da ogni parte del mondo. Ehi, ho trovata la scheda, non so se tu ce l'abbia ancora stampata. Band plan HF della sezione di Milano, sezione aerei di Milano. Ed è quello con tutte le gamme colorate, praticamente ogni colore indica un modo di emissione, tipo CW, fonia 2700 Hz, che credo che sia l'SSB, fonia 6000 Hz, che dovrebbe essere FM, cioè, magari sto sbagliando, digitale 500 Hz, digitale 2700, immagini, satellite, beacon, eccetera, eccetera. Sì, ma ce la dovrei avere anch'io da qualche parte, l'ho buttata, perché ho tanti appunti di ogni genere, sempre quello, che un giorno farò pulizia e butterò via tutto, perché tanto non me ne faccio niente assolutamente, però nel momento, sai, ero più interessato, adesso un po' meno, sono passati tanti anni, per cui tra tante cose li hai lette, stralette, per cui non ho, magari me ne sono anche dimenticati tante le cose, ma non mi interessa più di tanto, ormai alla mia età cosa vuoi che mi metto ad impegnare la mente in certe cose, ma non ci penso proprio, guarda. Eia, ma Antonello è caduto nel tinello, Antonello si è rientrato? Ma credo che abbia qualcosa da fare in famiglia. E beh, anche lui, perché Simona poi non stava tanto bene, insomma. E così è la vita, là. Quindi le priorità. Eia, sì, questo qua me l'ero classificato, col classificatore, in modo che anche se ci cade acqua o altri caffè, qualcosa, non si rovina, rimane sempre nuovo. E vabbè, e c'è sia per l'HF sia per la V e la U anche. Però quello HF è più interessante perché è più intricato, capito? C'è un sacco di frequenze, frequenzine anche specifiche per fare certe attività. Sì. Ma sta notando, ad esempio, c'è un tipo, un certo De Melas, non so se l'hai mai notato tu, sul tablet, che io seguo molto il tablet, anche lo vedo un po' tutto, YouTube e balle varie, no? Che manda dei video sempre improntati sul PMR, ma a quanto sembra loro fuori, perlomeno non qui in Sardegna, non qui a Casassari, sono ben organizzati anche a livello del PMR, parlando di 500.000 watt, non di potenze, sto parlando di radioamatori che usano molto il PMR. Sì, aspetta che il gatto sta cercando di buscare, poveretta, c'ha ragione, devo dargli da mangiare a queste bestie. Flo, vieni, Flo. e sta camminando sul baracchino. Allora sì, Angelo de Melas, nominativo qua non c'è. Sì, parla un bel di roba, di PMR, di baracchini, di nuovi sistema radio, ma lui è, presumo, sardo, ma è fuori sede lui, no? Perché leggo, boh, Lombardia. Ah no, trasferta, boh, non so dove sia lui, ma cioè, spesso capivo che non era in Sardegna dai suoi video, capito? No, infatti non era in Sardegna, io so che sia a Milano, perlomeno ricordo di aver capito che lui era a Milano, perlomeno che se la metteva da Milano, non so poi con quale altra località si collegasse, questo non lo so, e con quale attrezzatura poi si collegasse, perché mi sembra strano che con 500 mila infatti non è che puoi fare tanta strada, nella maniera più assoluta, a meno che uno non utilizza apparecchiature, antenne idonee e tutte queste belle cose qua. Non lo so, sì, infatti è quello De Melas, sì, è quello lì. Ogni tanto mi manda un video, mi manda sul tablet, che poi sistematicamente lo cancello perché intanto poco mi interessa. Eia. Va bene, infatti stavo guardando, sì, mette tanti video così, è un po' robusto il signore, da un po' sovrappeso. Sì, è quello, sì, è quello, un po' sovrappeso, è vero, che poi si collega magari, probabilmente tramite il computer stesso si collega con altri e si inquadrano anche quattro persone per volta e dunque si scambiano le loro impressioni l'uno con l'altro, non lo so, veramente, non è che l'ho seguito molto, anche perché non è che mi appassiona più di tanto. PMR ha la potenza che ha, cosa vuoi, magari lo possiamo usare noi, l'abbiamo usato per un certo periodo di tempo, che ci siamo dimenticati anche di quello, invece secondo me è una cosa da tenere in considerazione, perlomeno qui a Sassari avremmo dovuto tenerlo in considerazione. Sì, ma sai cos'è, mentre noi col baracchino omologato con 4 watt siamo in regola, lì qualche watt in più, qualche antenna esterna in più e siamo ben fuori dalle regole, dai, è più rischiosetto, ecco. Poi in macchina non ne parliamo, se a un posto di blocco becchi che un carabiniere radioamatore si accorge subito che quello, insomma, non dovrebbe avere antenna esterna, no? Peggio se c'è un veicolare bibanda, allora lì la multa, i 2000 euro di multa sono assicurati. Sì, in effetti è così, lo so, però per dirtelo, io no, col gommino da casa praticamente posso parlare benissimo con Tino, da dentro casa, senza nemmeno uscire fuori, da dentro casa posso parlare con Antonello, Antonello può essere il testimone di questo fatto, che tante volte lui lo sento sul canale 1 di solito, magari sta giocando con i bambini, io magari di tanto in tanto l'accendo, anche perché ce l'ho questo PMR, però carico le batterie per non lasciargli decadere, no? Anche perché c'è la batteria, quella di impuntata che l'avevo pagata 20 euro, solo la batteria, mentre invece il PMR mi sembra che l'avevo pagato 30 euro, te puoi immaginare, ho pagato più la batteria che il PMR. Sì, alle volte capita. E io purtroppo da come hanno fatto i lavori ho tolto anche l'antenna, quella che usavo per lo scanner, per ascoltare, con la Sirio corta, e con l'antennino dentro casa non prendo nulla, prendo giusto i radioamatori a 5, 2, 5, non tutti, solo quelli più forti, i soliti, da quelli di Sassari. Ma se poco a poco sono fuori Sassari o limitrofi, proprio non, con l'antenna interna non posso sentirli, non sento più niente qua, insomma. Beh, tu non ci crederai, io ho parlato un paio di volte con l'acustica, e sai con chi? Esattamente con Sandro di Porto Torres. Lui si trovava allora in quel periodo, lui faceva un altro tipo di lavoro e dunque andava in giro per i posti, no? E si è trovato almeno 2 volte in acustica. E io sono riuscito a collegarlo, lui dalla macchina e io a casa mia, col PMR, però lui si trovava nel punto più alto della acustica, capito, Marco? Caspita, è la Corsica, non è la Ginara, La Corsica è già più lontanuccia, ma con 500 milliwatt lo hai collegato oppure qualcosina in più, 4? Beh, vabbè, allora al periodo avevo un antennino, avevo autocostruito un antennino allora, che adesso non ho più. Beh, così è più facile, da antenna esterna, qualche watt in più, no, perché se no il PMR usato in città è deleterio. Se sei in una zona invece bella pianeggiante, tipo spiaggia, no? Allora lì i chilometri li fa, proprio con i watt originali, Vabbè, io li avevo misurati una volta, quando ho avuto i primi Brondi FX, aspetta come si chiamavano, vabbè non mi ricordo, i primi Brondi omologati che avevano fatto, no? Quando hanno fatto la normativa PMR, li avevamo provati su spiaggia, no? E in portata ottica, proprio ottica che io vedevo l'interlocutore, abbiamo visto quando veniva perso il segnale, sempre a livello del mare, e sulla cartina avevo visto 2 chilometri, cioè loro dichiarano 5 chilometri, ma alla fine dopo i 2 perdevi il segnale. Invece appena salivi poco più in alto, adesso te lo dico, un interlocutore era al 5° pettine e io mi ero allontanato a piedi e ero arrivato alla marina di Sorso, proprio alla marina di Sorso. Quando sono salito su quella ringhiera lì, no, già hai visto, no, come scendi al mare, lì magicamente il segnale è decollato. Perché? Perché ero più sollevato rispetto all'altro interlocutore, ero più in alto, però poi a parità di altezza 2 chilometri misurati. Sì, beh certo, no, ma sai cos'è? C'è come un tipo di frequenza che se tu trovi il varco giusto riesci ad andare lontano. Ad esempio, da dove sono io qui, da dove abito io? A Sentino è facile arrivarci, perché più di una volta, sempre con Sandro, ho parlato con Sentino, lui si trovava lì e io a casa, sempre col PMR, oppure con Franco California, lui si trovava a Sentino in quella zona e io a casa. Si tratta di trovare il varco giusto, si tratta, perché se trovi il varco giusto va bene, mentre invece magari se ti sposti di 1 metro, e anche quello c'è da dire, devo essere seduto sempre in quella posizione, perché se mi spostavo un attimino non mi sentivano più. Sì, devi trovare il punto giusto, ma per esempio i record li fa chi va in montagna, mi pare chi va 2-3 mila metri, non mi ricordo quanto sia il record in diretta, no? Col PMR proprio tutto originale a norma di legge, mi pare sia 300-400 chilometri, una cosa del genere, però quella è l'altezza che fa molto, capito? E la portata deve essere ottica ovviamente. Non mi ricordo quant'era, se era 300 o più chilometri, in altura però. È come che noi andassimo insieme all'Imbara e proviamo a chiamare, vedi che il segnale imbatte, o peggio, immagina andare in cima al Gennargentu. In cima al Gennargentu e chiamare da lì, il segnale viaggia parecchio. Eh beh sì, sicuramente sì, oppure a Usero, ad esempio a Gennargentu, io ci sono stato l'ultima volta, un paio d'anni fa, sono andato a farmi una passeggiata al Tempio, poi sono salito su, proprio all'Imbara, in alto, proprio dove ci sono i ripetitori, eccetera, proprio a quella altezza lì. Però non avevo portato radio, non mi ero ricordato che potevo portarmi anche la radiolina. E la settimana scorsa invece mi sono fatto un'altra passeggiata a Osilo, sono salito sino su alla chiesa di Osilo, a Bonaria, e anche lì c'è un'altezza fenomenale, guarda, c'è una visualità bella, proprio vedi tutta la vallata, il lungo e il largo, proprio bella, bella, bella, ma c'era un vento così gelido che era tremendo, poterci rimanere più di 5 minuti. C'era tutto bello incappucciato, per dire, no, ben coperto, però c'era un momento gelido, non si poteva fare. Ma per dirti, no, sono località molto molto idonee per la radio, ecco, per poter andare molto ma molto lontano con la modulazione. Poi UHF, cioè non è nemmeno a dire che VHF, VHF è tre volte più corta l'onda, è critica, potremmo definire la critica come frequenza. E quindi poi vabbè, se uno è in altura e usa anche qualche watt in più non ne parliamo, però vabbè, così alla fine non c'è gusto, dai, come usare i lineari. I lineari grossi, 27, grazie. Va bene, vediamo se Antonello è rientrato, se no io farei una pausa e stacco Giulio. Antonello, sì. Non c'è, Antonello non riprende. Va bene, Marco, se vuoi staccare non c'è problema, figurati. Ma ti volevo anche ricordare, tu non so se in quegli anni c'eri, io adesso non mi ricordo, sempre col PMR, però con l'altro, come si chiama? L'altro, ma sai che non mi l'altra frequenza che avevamo usato, che noi parlavamo addirittura tutti quanti, e tutti indistintamente da Sassari, riuscivamo a parlare con uno di Genova. C'era questo radioamatore che puntava l'antenna, puntava in Sardegna, e riuscivamo a parlare con lui tranquillamente, tutti i santissimi giorni. Io mi ricordo la sera andavo a buttare la Mondezza, perché allora c'erano i cassoni, oggi no, oggi c'è la differenziata qua, e passano porta a porta ad entrare la Mondezza. Ma prima, quando ancora c'erano i cassoni, la notte andavo a buttare la Mondezza, andavo, che era un po' distante da dove abito io, e mi portavo la radiolina e mi collegavo tranquillamente con questo di Genova, tranquillamente, proprio una cosa fenomenale, con LPD, ecco, con l'LPD però, non in PMR, in LPD, Marco. In LPD mi sembra ancora più strano, ne avevamo parlato più volte di questa cosa. Guarda, persino via troposfera mi sembra una cosa troppo strana che sia in diretta, nonostante la direttiva e tutto. Qualcuno stava ipotizzando che ci fosse un tramite in mezzo a qualcosa tipo Ecolink, che ne so, qualcosa che comunque faceva sembrare la cosa in diretta, ma in diretta non era. Cioè, lui aveva apparecchiature sì professionali, però dall'altra parte c'erano apparecchiature normali, LPD, con potenza magari limitata, con antenne magari anche se esterne e verticali, cioè mi sembrava un po' strano. Però poi la verità, ormai sono passati tanti anni, non è possibile verificarla questa cosa, capito? Infatti non è possibile, questo sì è vero, però no, ma io penso che sia abbastanza normale, veritiera il discorso, perché questo lui dice che puntava la direttiva in Sardegna, in pratica non è che eravamo noi che arrivavamo là, era lui che ci acchiappava, ecco, ci prendeva per i capelli e riuscivamo a parlare con lui, ma tutti quanti, non solamente io, tutti indistintamente, con un semplice LPD, perché allora eravamo da quello, PMR non lo usavamo per niente, ma io sto parlando, penso, di 12 anni fa, 13 anni, forse anche qualche anno in più, o forse qualche anno di meno, non lo so, ma più o meno era in quel periodo lì. Ma una domanda, ma gli LPD che usavate erano proprio MD LPD 10 milliwatt antenna incorporata? Perché allora così sarebbe anche troppo sporca, Giulio, sembra quasi fantascienza, diciamo. L'LPD normale, avevamo un LPD normale, 69 canali, noi potevamo utilizzare 69 canali, che poi successivamente in pratica ce li hanno tolti, così si diceva, poi se è vero non lo so, io so che ancora oggi si possono usare sino al canale 20, cioè noi con della frequenza CB, so che ancora oggi possiamo utilizzare fino al canale 20, però dicono che loro ci sono i radioamatori che potrebbero essere disturbati perché la banda è di 432, mi sembra, se ricordo bene, quella cosa del genere, 435, adesso non mi ricordo più nemmeno la frequenza esatta qual era, ma per dire, era in LPD, proprio in LPD, se te lo sto dicendo, uscivo la sera a portare la mondetta e col coso, tiravo sull'antennino perché avevo l'antennino, il mio PMR, piccolo come ce l'aveva una volta il telefono, i primi telefoni, te ricordi, un antennino del genere, e arrivavo tranquillamente a Genova senza nessun problema. Io credo che per i canali poi li abbiano di nuovo tutti abilitati, naturalmente è buona creanza anche avendolo omologato l'LPD, andare in frequenze libere, certo magari quello che sente il radioamatore tu non lo senti, casomai basta avvertire e spostarsi, no? Non come quelli prepotenti che addirittura facevano tipo Softair a 145 MHz, capito? E magari ti andavano a dire, c'eravamo noi prima sul canale, capito? E poi mi pare siamo stati segnalati, almeno così sapevo. Non lo so. Sì, sicuramente. No, ma per dirti, noi nel LPD era molto ma molto più facile. Si andava più lontano, a differenza del UHF, nel LPD si andava, perché l'LPD era VHF. Ecco qual è la differenza. Penso che sia così, adesso non ricordo, non vorrei dire una fesseria, ma mi sembra che sia così, Marco. Tu ti ricordi di qualcosa del genere? No, LPD è UHF, 433, 434, che poi vabbè bisogna andarci anche cauti, 434 mi pare sono frequenze del Ministero degli Interni, una volta c'erano, non so se dei ripetitori, punti di interscambio, non so come chiamarli, dove sentivi magari i vigili del fuoco oppure la polizia, in chiaro. Poi come hanno lottato il tetra sono scomparsi mi pare da lì, però per cautela era meglio usare sempre i canali sui 433 senza scocciare i radioamatori, cioè andare su canali effettivamente liberi. Vabbè, i radioamatori ce l'hanno anche a statuto secondario, quindi se magari un canale lo stai occupando tu, se in vicinanza di un radiatore non è che può dire vattene da qua che devo modulare io, no, sta tutto secondario alla fine, capito? L'importante è non pestarsi i piedi l'un l'altro, è tutto lì. Poi vabbè, a Sassari diciamo è stata fatta sporca anche l'LPD, cioè 20 watt antenne esterne o 4 watt o 20 watt, però lì è troppo sporca, e quindi meglio, se proprio uno deve fare prove di un certo tipo, limitarsi alla banda PMR. Sì, è vero, hai ragione, adesso mi hai fatto ritornare la memoria della frequenza dell'LPD, era 433, quello che noi usavamo, 0,75, canale 1, sì, adesso mi ricordo bene, mi hai fatto ritornare, sì è vero, anche quello è UHF, ma per dirti, no, in quella frequenza si andava molto più lontano delle 4,46, molto, ma molto più lontano. Comunque anche quel tempo lì è passato e non l'abbiamo più utilizzato, e non so nemmeno se è ancora accettabile il fatto che lo possiamo utilizzare, non lo so, la verità, non mi sono più documentato. Allora, io ho ancora degli LPD proprio a norma di legge 10 mW, li uso come interfono, certe volte per parlare con mamma, da una camera all'altra, tipo se sono in cucina, lei ha bisogno di qualcosa mi chiama, mi aspetta, te lo faccio in diretta, aspetta un attimino. Ci sei ma alla radio? Saluta Giulio, manda un saluto a Giulio. Sono alla radio, Giulio, ciao, sono la cagnellola di Marco, ciao. Ecco, questo era in LPD, 10 milliwatt, usato con interfono. Ok, ciao, ciao Liu, salutoni, ben ascoltata, è un piacere ascoltarti tutte le volte. Sì, oh Marco, sì, è vero. Guarda che frequenza stai usando in quel coso lì, vediamo se mi senti da qui, però non nel pedino, in un altro, in BMR, oh Marco, per vedere se mi senti, visto che mi senti Antonello da qui, in BMR non so se quello va bene. Allora, sì, quello c'è anche la banda. Allora, quello lì c'ha la banda anche PMR, però sai cos'è? Non è in contemporanea, cioè lo devo spegnere e riaccendere. Siccome l'ho bloccato anche con il lock per usarlo con mamma su quel canale, con quel tono, mi viene male. Però ripeto, abbiamo fatto anche con Antonello le prove. Io a casa non sento nessuno, non sento né Antonello, e in passato non sentivo te, con l'antenna interna, cioè con l'antennino interno dello scanner, non sento più nessuno. Purtroppo è così, sento solo i radiatori che sono forti però. Ah, vabbè, allora non fa niente, non fa niente. Poi se capita un altro giorno in condizioni più favorevoli, allora possiamo fare anche una prova. Adesso lascia stare, non lo scombussolare, visto che ce l'hai sintonizzata e soprattutto bloccata su quel canale per poterlo utilizzare tua madre. Anche, lascia stare così, va bene. Sì, mamma ha sentito i tuoi saluti, è sempre tramite ponte, quindi l'ho copiato. Pensa che la passione mia è nata assieme a mamma, cioè gira me l'ha messo più in testa lei, cioè, a me piacevano già i walkie talkie negli anni 70-80 e poi è stata la sua la decisione e soprattutto la spesa di provare queste cose qua. Lo so. Ma toglimi una curiosità, così per memoria, in che anno ha iniziato tua madre a parlare al baracchino? Io ho incominciato nel 1972, ho incominciato febbraio 1972. Dimmi se tua madre ha iniziato in quel periodo o dopo di me o prima di me. Agosto 1984. Ah, ok, che parecchi anni dopo di me. No, io ne ho 72, per cui faccio il conto quanti anni sono in frequenza. Siamo nel 25, adesso compio esattamente 53 anni. 53 anni che io ho parlo al baracchino. Caspita, noi siamo solo a, quindi, nel 2024, quindi 84, 2024, caspita, siamo in difetto di più di 10 anni rispetto a te. Ehi, va bene, non è un problema, ma per dirti no, poi c'è gente che ha iniziato anche prima di me, tipo ad esempio Gio Maria ha iniziato 4-5 anni prima, ti vuoi immaginare, ha iniziato, poi c'era anche Walter lo stesso, alcuni anni prima, pensa che a Walter io l'ho conosciuto quando aveva 18 anni, un giorno è venuto questo ragazzo, mi ha suonato il campanello, mi ha suonato, io abitando qua dove sono, mi ha suonato il campanello, mi si è presentato questo ragazzo, sì dimmi che cosa c'è, io ormai ero già un giovanotto grande, perché nel 72 fatti conto, io avevo già 30 anni praticamente. E stavo dicendo, mi si è presentato questo, dice sono Walter, ah Walter sì, ed era un ragazzo allora di 18 anni, ti puoi immaginare, Marco. Eia. Guarda, io ho letto anche dei racconti della 27 pre-legalizzazione, no? Di solito dopo cena qualcuno saliva a 4-4 sui tetti e alzava timidamente la Grand Plaine, sai, quando era già buio, andava in una cameretta e iniziava a modulare, no? Proprio pre-legalizzazione, si rischiava grosso. E se per caso sentivi suonare il campanello all'ora di cena o dopo cena e ti veniva il terrore, magari era il vicino che suonava per chiedere se avevi un po' di sale e roba del genere, insomma, c'erano racconti del genere su quei giornaletti dell'epoca che magari trovavi anche su Cicco Elettronica, no? Cose vissute, dai, i pionieri della 27, ecco, con le prime radio sicuramente americane portate abusivamente dall'America e usate altrettanto abusivamente. Allora era molto diffusa la radio, il baracchino era molto diffuso in quegli anni. Adesso ormai nessuno, i giovani non entrano in frequenza, non sono appassionati, non lo so per quale motivo, hanno altri interessi probabilmente, invece prima no, prima era tutto diverso e ce n'erano di bei ragazzi allora che parlavano al baracchino, tipo che lo so, Nando, il fratello poi, oppure Costanzo, ora zero con col fratello Antonello. In quel periodo c'era un certo Angelo Mello, che si chiamava, al baracchino si chiamava Shadow 2, che poi purtroppo è morto, perché poi era partito sotto le armi, era diventato poliziotto, era diventato anche vice commissario di polizia ad Alessandria. Beh, purtroppo si è ammalato ed è morto alcuni anni fa, saranno 4 anni fa, 4-5 anni fa che è morto. Un ragazzo che io ho conosciuto quando aveva appena 14 anni, mi ricordo che lui passava da me, passava con questa radio a tracolla, aveva una borsa fatta su misura tipo militare e aveva il Pony 23 canali e me ne è venuto